Buongiorno e bentrovati a tutti i radioascoltatori. Oggi abbiamo un graditissimo ospite con noi, è un ritorno perché lui è Omar Pallante e viene a parlarci dell'ottavo anniversario della Modateca Igor Pallante a San Lazzaro. L'ottavo anniversario sarà il 19, sabato 19 ottobre, a partire dal pomeriggio, insomma, con tanti interessanti eventi. Allora, intanto bentrovato, ciao Omar. Ciao, buongiorno a tutti e grazie mille per ospitarmi come sempre. È sempre un piacere perché andiamo a parlare sia di moda che di cultura. Come si svolgerà la giornata al MIP? Avremo nel pomeriggio un interessante market, ci sarà un mercato di artisti e artigiani. Dopo una lunga selezione che è stata fatta, sono stati dedicati questi spazi a delle attività che potessero essere comunque legate al nostro progetto culturale. Sì, è un happening dove troveremo artigiani ed artisti e sarà seguito poi dal momento centrale dove parlerete e racconterete questa esperienza e si potrà associarsi, è giusto? Esattamente, alle 18:30 come sempre faremo una veloce conferenza dove raccontiamo un pochino un aggiornamento di quello che sta accadendo in MIP, di quelle che sono tutte le attività correlate con questo spazio. Presenteremo l'associazione Friends of MIP con l'obiettivo appunto di distribuire le tessere associative. E presenteremo la sfilata di vicini distanti. Vicini distanti che si occuperà della sfilata che ci sarà dopo la conferenza. Vorresti parlarcene più nel dettaglio? Assolutamente. L'associazione Vicini Distanti è un'associazione di promozione sociale e soprattutto nasce per favorire il cambiamento della percezione sui migranti in Italia e anche per promuovere nuove forme di cittadinanza inclusive, per accelerare i processi di integrazione sociale di richiedenti asilo e rifugiati sul territorio. Diciamo che nello specifico verrà realizzata questa narra sfilata, che è una performance artistica in cui questi abiti realizzati da questi sarti richiedenti asilo sfileranno in una sorta di viaggio, in una sorta di défilé a tappe che saranno scandite da un dialogo tra un giovane guineano e un giovane italiano e racconterà proprio una storia di un viaggio che in questo caso è legato anche ai tessuti e al riutilizzo di questi tessuti africani, ma soprattutto di un viaggio da un paese lontano al nostro tanto sognato occidente. Quindi un tema estremamente impegnato e attuale. Assolutamente sì, troviamo che comunque l'obiettivo del MIP sia dall'inizio non fosse quello di aprire una bella biblioteca con un po' di testi, ma quello di creare tutta una serie di attività e di eventi che si rispecchiassero nel sociale. Quindi tutte le collaborazioni che cerchiamo sono sempre mirate ad andare a toccare questo genere di temi. Quindi sabato 19 ottobre, giornata veramente intensa, vorrei con te, Omar, fare un ricapitolo di tutti gli eventi che ci saranno. Dal pomeriggio, diciamo indicativamente tra le 15 e le 16, partirà il MIP Market, questo primo mercatino artistico. Verso intorno alle 18:30 ci sarà la conferenza dove presenteremo il progetto, l'associazione. Alle 19 inizierà la narra sfilata IADU e a seguire ci sarà un aperitivo etnico correlato alla sfilata appena venuta. Quindi ringraziamo in particolar modo tutti gli organizzatori e ricordiamo che Vicini Distanti, che ha sede in via San Mammolo 139, e invece vi rimandiamo l'invito per l'ottavo anniversario del MIP Modateca Igor Pallante, biblioteca di testi legati alla moda, ricordiamo che ha sede presso la Mediateca di San Lazzaro in via Caselle 22, proprio a San Lazzaro di Savena. Grazie ancora, Omar. Grazie a voi, grazie a Radio Fujiko che ci sostiene da ormai 8-10 anni in questo progetto e ci ospita continuamente. Quindi grazie tantissimo a voi. E grazie anche a Arte Vetrina Project che ha organizzato e continua a organizzare questo, ricordiamo, con uno sforzo praticamente solo aziendale e personale. Quindi un grazie sentito perché crea una realtà culturale a Bologna che differenzia, insomma, questa città magari da tante altre e ci fa davvero piacere seguirla. Arrivederci.